baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. È una grave contraddizione per Silvio Berlusconi chiudere ruvidamente con l'opposizione e contemporaneamente dichiarare che si cambierà la Costituzione per fare la riforma della giustizia. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini e in regia con noi Carmelo Lauricella. Io vi ho letto, c'è un breve commento non firmato sul Corriere della Sera, uno dei quotidiani presi di mira da Silvio Berlusconi qualche giorno fa, che critica il Premier proprio sul tema della giustizia. Vediamo cosa dice ancora il Corriere della Sera in prima pagina. Invece di provare e poi provare ancora a coinvolgere l'opposizione su un cambiamento della nostra carta fondamentale, il capo del governo prima sbatte la porta in faccia alla minoranza parlamentare e simultaneamente proclama che potrebbe andare avanti da solo. Per di più su un tema delicatissimo e sensibile come quello della giustizia. Ma una decisione del genere significherebbe non tenere in alcun conto i pareri del capo dello Stato e del Presidente della Camera, che si sono espressi a favore di una riforma condivisa. L'opposizione non solo non verrebbe ascoltata, ma sarebbe sfidata su un terreno esplosivo, quello del cambiamento unilaterale della Carta Costituzionale. Peggio di una contraddizione, il peggiore degli errori, così il Corriere della Sera versus Silvio Berlusconi, che come voi già sapete dai GR ha detto in occasione di una presentazione del libro di Bruno Vespa, Giustizia, cambio la carta, questo tra l'altro è il titolo del Corriere della Sera, che ci descrive l'affondo di Berlusconi sulla giustizia, è lo stesso attacco, diciamo, che si vede in prima pagina del giornale, il quale esprime ancora meglio le opinioni del Premier. Pronti a cambiare la Costituzione, Berlusconi a tutto campo, entro 6 mesi la riforma della giustizia, poi faremo decidere i cittadini. Magistrati, ordini separati, Casini, porte spalancate, basta che aggiunge Berlusconi che Casini entra nel PDL. La sinistra è leninista, nessun dialogo, ecco, quindi un clima molto pesante si annuncia dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi a proposito del tema giustizia. Ora non è solo il Corriere della Sera però a prendere le distanze da questa ipotesi, un altro quotidiano che non era diciamo nella lista del Premier, come per esempio La Stampa, però il Sole 24 Ore, dicevo, affidando quotidianamente il punto a Stefano Folli, titola: più che il dialogo al Premier piace il perenne clima elettorale. Vediamo cosa scrive Stefano Folli nel commento quotidiano a proposito di questo delicato tema della giustizia. Nell'orgia di parole a cui ci ha abituati da anni la classe politica, tiene banco l'ultimo bengala acceso nel cielo sopra Montecitorio. Dice Berlusconi: è impossibile dialogare con questa sinistra a meno che non si allontani da Di Pietro. Ma noi abbiamo la maggioranza per cambiare la Costituzione. E aggiunge il Presidente del Consiglio: per Casini le porte del PDL sono spalancate. Segue un momento di sconcerto diffuso soprattutto fra i militanti della Forza Italia. Ma come, davvero il Presidente vuole riprendersi in casa l'UDC dopo averla additata per mesi come la sentina di ogni male, il partito sleale in grado di inquinare la coerenza del centrodestra? La risposta costruita alla domanda è piuttosto semplice: no, Berlusconi non pensa di restituire uno spazio politico all'UDC dentro i confini del PDL, non ne ha alcuna intenzione, per il buon motivo che Casini nel centrodestra riproporrebbe agli occhi del Premier le stesse contraddizioni che alla vigilia delle elezioni portarono alla separazione. Questo scrive Stefano Folli sul Sole 24 Ore. Semmai si potrebbe dire che Berlusconi ha visto con sospetto le ultime mosse del leader centrista. È credibile che si possano fare le riforme in questo clima? Si chiede sempre Stefano Folli. Non tanto. È vero che Berlusconi ha i numeri, ma è dubbio che abbia lo spirito per smontare e rimontare la Costituzione avendo contro tutta la minoranza parlamentare, la magistratura, parte dei sindacati. Sarebbe un compito immane. In tempi normali diventa quasi insormontabile quando si è immersi in una recessione che impone altre priorità. Tuttavia il Premier, come al solito, è astuto, ricrea un clima di scontro un po' sul modello della campagna elettorale e con ciò ricorda a tutti, compresi i suoi alleati, chi è il leader, un monarca un po' anarchico, ma pur sempre un monarca. Se qualcuno del centrodestra ha coltivato la tentazione di cogliere le aperture di Casini, sappia che la partita è finita prima di cominciare. Questo scrive Stefano Folli sul Sole 24 Ore. Il Sole, come potete immaginare, però apre la prima pagina sull'altro tema drammatico, diciamo, di questo momento, che è l'economia. Gelata dell'industria, meno 6,9%, brusco arretramento della produzione industriale a ottobre, l'indice Istat ha fatto registrare una flessione dell'1,2% rispetto a settembre, un calo del 6,9% rispetto a ottobre 2007. Tengono però i beni di consumo, più 0,8%, anche le previsioni sono negative. Per il centro studi Confindustria, la produzione industriale di novembre scenderà a meno 11,4% tendenziale. Intanto l'Istituto di Statistica certifica la recessione nel terzo trimestre, confermata la diminuzione annua dello 0,9% del prodotto interno lordo, 0,5% rispetto al trimestre precedente. Negli ultimi tre mesi dell'anno ci sarà una contrazione dello 0,8%. Il Premier Silvio Berlusconi dice serve però fiducia, siamo nelle mani dei consumatori, che i quali però, se non hanno soldi per consumare, sarà difficile che potranno essere la leva per l'economia. Questo comunque sul Sole 24 Ore. Ora, che affida poi invece a Carlo Carboni un commento: la cura degli acquisti, la crisi finanziaria almeno nel nostro paese sta rilasciando effetti contrastanti e sorprendenti, ci si aspettava ad esempio un crollo dei consumi, ma il weekend ha visto lunghe code di sciatori agli impianti di salita in montagna. Poi però lo stesso Carlo Carboni ci spiega che potrebbe essere quello del dei consumi un fuoco di paglia, perché il tema forte è che si perdono migliaia di posti di lavoro, di conseguenza si impenna la CIG, si riduce la capacità di assunzione da parte delle imprese. Lo spettro della perdita di lavoro in Italia appare anche più insidioso per la mancata riforma degli ammortizzatori sociali, di cui tuttavia il governo prevede un'estensione nel 2009, e per un debito pubblico da record che toglie ossigeno all'azione welfare dello Stato. Questo scrive il Sole 24 Ore a proposito del tema drammatico della crisi della gelata dell'industria, che abbiamo detto a meno 6,9%. Dubbi di Bruxelles sullo scorporo della rete Telecom. Sì, avevo trascurato sempre dal Sole 24 Ore questa notizia di prima pagina, che è di grande importanza e interesse. Il commissario UE alle TLC Viviane Reding ha chiesto alla GCOM di notificare a Bruxelles la separazione funzionale della rete Telecom prima di prendere la decisione definitiva. L'autority, guidata da Corrado Calabrò, sta esaminando la lettera UE in vista delle decisioni attese per oggi. Voglio anche ricordarvi che oggi in edicola con il Sole 24 Ore c'è House 24, la rivista delle dimore di prestigio, a 10 euro oltre al prezzo di copertina. Ce l'ho sotto gli occhi e ci sono splendide foto di interni per chi è appassionato di immobili di pregio, dimore storiche e case esclusive di vacanza. Questo dal Sole 24 Ore, ma ora dobbiamo tornare al tema bollente, che è quello della giustizia. Abbiamo visto il Corriere della Sera, che è in parte con l'opinione di Stefano Folli, che i grandi quotidiani insomma arricciano il naso di fronte alle parole di Silvio Berlusconi. Ora vediamo cosa invece dice la Repubblica. Beh, è abbastanza prevedibile, la Repubblica è sempre stata l'opposizione più fortemente ancora dei quotidiani citati, e infatti a firmare l'editoriale di prima pagina è proprio il direttore Ezio Mauro. Il potere unico, quindi non è solo una divergenza specifica rispetto alle parole di oggi, ma dice: siamo dunque giunti al punto, scrive Ezio Mauro. Ieri Berlusconi ha annunciato l'intenzione di cambiare la Costituzione a colpi maggioranza per riformare la giustizia. Poiché per la semplice separazione delle carriere non è necessario toccare la Carta Costituzionale, diventa chiaro che l'obiettivo del Premier è più ambizioso, ed è ovviamente, dice Mauro, quello della giustizia, o la, quello della Costituzione, o la modifica del principio previsto in Costituzione dell'obbligatorietà dell'azione penale, o la creazione di due CSM separati, uno per i magistrati giudicanti, uno per i pubblici ministeri, creando così un ordine autonomo che ha in mano la potestà della pubblica accusa, il comando della polizia giudiziaria e il potere di autocontrollo. Viene da così a compiersi un disegno che non è solo di potere, ma in qualche modo di sistema, e a cui fin dall'origine il berlusconismo trasformato in politica tendeva per la sua stessa natura. Il passaggio, per dirlo in una formula chiara, da una meccanica istituzionale con poteri divisi ad un aggregato post-costituzionale che prefigura un potere sempre più unico, e questo è il punto, un potere incarnato da un uomo che già ha sciolto se stesso dalle regole secondo cui la legge era uguale per tutti, con il lodo Alfano. Insomma, parole durissime da parte di Ezio Mauro. Con ogni evidenza a Berlusconi non interessa riformare la giustizia, gli preme invece riformare i giudici, come ha cercato di fare dall'inizio della sua avventura politica, e come può fare più agevolmente oggi che l'establishment vola compatto insieme con lui. Due procure danno spettacolo indecoroso, il PD si lascia incredibilmente affibbiare la titolarità di una questione morale da chi ha svillaneggiato la morale repubblicana e costituzionale con la tessera della P2 ancora in tasca. Ecco, come vedete, insomma, le parole sono pesantissime. Il quotidiano La Repubblica intanto pubblica a pagina 12-13 una intervista a Obama, a Barack Obama, che dice: America, non ti deluderò. E ci sono una serie di riprese dei programmi che il presidente dialogo con l'Islam, giurerò da Barack Hussein, e ancora parlerò in una capitale islamica per mandare un messaggio di riconciliazione, ma con i terroristi saremo inflessibili. Non ho mai parlato del mio seggio a Senato con Blagojevich, altro non intendo dire, c'è un'inchiesta in corso. Insomma, un'intervista a tutto campo fatta, poi ripresa dal Los Angeles Times, e fatta da John McCormick, Peter Nicholas e Christy Parsons, su tutti i temi che riguardano le strategie di Barack Obama per i prossimi anni negli Stati Uniti. Dicevo che però il quotidiano della Repubblica intervista anche Fabio Fazio, perché c'è, ormai l'avete capito, avete sentito, un caso Fazio, un caso politico. Fazio viene accusato e replica: non dipendo dalla politica e la destra rifiuta i miei inviti. Insomma, dice Fazio, invece la polemica nasce dopo la puntata con Soro. C'è chi dice che Soro ha fatto un figurone e questo ha dato molto fastidio, dice l'intervistatore, cioè Antonio Di Pollina. E valutate voi, ma c'è un'altra cosa su cui Gaspari ha ragione. Adesso diventa interessante davvero. Quando dice: quelli invitano chi vogliono loro, certo. E chi dovremmo invitare? Chi dovrebbe fornirci la lista degli ospiti? Mi sembra una cosa da matti. Siamo ogni settimana chiusi in una stanzetta con gli autori, parliamo, prendiamo decisioni, ci interessiamo a quello che succede. Soru era un ospite di attualità. Mi sembra il solito vecchio vizio della politica sulla TV, un atteggiamento proprietario che, come dire, lo dica, La politica non è il mio editore, punto e basta. Ma loro incalzano comunque con toni forti. Io non posso scendere a livello di chi parla di lacchè, servi e quelle altre definizioni. Io non rispondo che al pubblico e devo avere rispetto del pubblico. Se sento di riuscire in questo, non mi interessa altro. Questo Petruccioli poi lo difende, dice: Fazio è il nostro Letterman, il PDL invece alza il tiro contro, che tempo che fa. E però c'è un fatto: Napolitano elogia lo show e soprattutto proprio stasera su Rai 3 con lo special Andrea Bocelli e robuste iniezioni di Littizzetto e Albanese per l'occasione. Si è scomodato anche il presidente Napolitano con un messaggio di complimenti in preparazione. C'è una serata memorial su De André a gennaio, nel decennale della scomparsa. Insomma, ecco, diciamo che l'intervento forse non è casuale, come dire, l'elogio di Napolitano proprio in questo momento, e vedremo che cosa sortirà questa ennesima polemica sulla della politica sulla televisione. Ecco, questo è il quotidiano La Repubblica. Ma Il Foglio in prima pagina riforme, parla di riforme solitarie. Il Cavaliere disfa la trama di Napolitano, Bossi si rabbuia, fini media. Questa è la chiave di lettura invece del quotidiano Il Foglio. Napolitano fa, il Cavaliere disfa, riservandosi l'ultima parola per rifare da capo. Con questa opposizione non c'è possibilità di dialogare, non mi siederò mai al tavolo con codesti individui. A costo di rabbuiare Umberto Bossi, ieri il Premier ha chiuso al dialogo con l'opposizione sulla giustizia, promettendo al contrario una celere riforma costituzionale, proprio il tipo di intervento che il PD ha sempre dichiarato irricevibile. È una brusca frenata perché il Cavaliere, o meglio il CAV, che poi è il Cavaliere più Veltroni, il dialogo tra maggioranza e opposizione aveva ripreso a funzionare intorno alle riforme del federalismo fiscale e della giustizia. Ma insomma c'è stata una davvero brusca interruzione che ha provocato quello che poi avete sentito sui giornali. Questo il quotidiano Il Foglio. Ora La Stampa, ecco, La Stampa, a proposito delle parole di Berlusconi, beh, La Stampa apre su un tema molto importante, che aiuti all'auto, America divisa, in Italia produzione industriale a picco, domani sciopero della CGIL, quindi i temi, diciamo, di economia, i temi forti che vengono dalla crisi ancora in corso e da quanto il governo americano sta facendo nel settore auto. Ora, dicevo che La Stampa, però, tornando alla politica, intervista Pier Ferdinando Casini, perché avete sentito dei GR le parole di Berlusconi. Casini è il benvenuto se si distacca, se in qualche modo però entra dentro il PDL. Ecco la risposta su questa intervista: tornare da Silvio non se ne parla, il Cavaliere vi spalanca le porte del PDL e voi dell'UDC che fate? Entrate? Premessa: nei confronti di Berlusconi voglio usare un tono cortese, per cui rispondo che mi fa piacere la sua offerta, ma non la capisco, anzi mi sembra uno scherzo. Il Premier Casini non scherza, il Premier Casini, dice l'intervistatore Ugo Magri, non scherza affatto. Allora come mai ha appena messo un veto all'alleanza con l'UDC in Abruzzo? Prima ci tratta come appestati, poi ci invita a trasferirci in casa sua? Forse ha deciso di prendervi con le buone maniere, visto che le cattive non hanno funzionato. Se da oggi vuol dare inizio alla stagione del rispetto reciproco, io sono contento. L'UDC è disponibile a un rapporto serio e concreto col PDL, col quale tra l'altro condivide parecchie responsabilità in sede amministrativa, purché si parta dalla consapevolezza che noi siamo un partito con la sua autonomia e che non possiamo tradire il nostro patto con gli elettori. Questo dice Pier Ferdinando Casini. Peraltro Stefano Folli invece sul Sole 24 Ore abbiamo visto che dice: ma insomma questa è una manovra tattica quella di Berlusconi, non ci crede. Berlusconi in sostanza vi chiede di confluire, non ci passa per l'anticamera del cervello, nemmeno se vi trovaste con le spalle al muro. Guardi, questo sondaggio è di un istituto serio, l'UDC viene stimato al 6,2%, cresciamo rispetto alle politiche di aprile, quindi dice non ci sogniamo di, proprio in questo momento di crescita, di tradire gli elettori e sciogliersi nel PDL. Questa è la risposta che viene a Pier Ferdinando Casini sul quotidiano La Stampa. L'Italia degli sprechi, regalo ai politici, assegno in bianco da 5 milioni. Questo il quotidiano Il Giornale, che a pagina 10 con un richiamo in prima pagina e il Friuli regala assegni in bianco, ci spiega un ennesimo caso di mala politica, diciamo, soprattutto in tempo di crisi. Vediamo cosa scrive Giannino Della Frattina sul quotidiano Il Giornale. Omertà. Beh, intanto vi rileggo i sommari. In Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dei consiglieri i fondi da distribuire ad associazioni, enti e parrocchie. Il presidente Tondo, PDL, vorrebbe eliminare il privilegio, ma si scontra con l'opposizione di destra e sinistra unite. Omertà, difficile trovare un altro termine, anche se la latitudine non è quella di Palermo. Questa volta tocca alla Mitteleuropea Trieste, capovolgere i luoghi comuni e dimostrare che Sprecopoli abita un po' dovunque. Destra e sinistra unite nel silenzio assenso che avvolge la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, terra promessa della beneficenza fatta con i soldi degli altri. Geniale, cosa c'è di più comodo? Un po' come fare shopping usando la carta di credito di Flavio Briatore. Miracoli delle regioni a statuto speciale, con Trieste che ogni anno mette a bilancio quasi 5 milioni di euro da distribuire ai consiglieri regionali, i quali a loro insindacabile giudizio li gireranno a enti, associazioni, proloco e semplici parrocchi, o in omaggio alla par condicio, ricordano da sinistra, società di mutuo soccorso e bocciofile, perché nulla vieta di destinare denaro pubblico per allietare i pomeriggi di chi ha per passione il tiro al pallino. Ecco, questo insomma è il caso che viene denunciato da il quotidiano Il Giornale, che poi si occupa anche del vertice D'Alema e Veltroni, ne dà una chiave di lettura: quella pace di comodo per resistere ai giudici. È un'intervista al ministro Angelino Alfano. Con il nostro piano, che torna sul tema della giustizia, con il nostro piano, parità effettiva tra accusa e difesa, il guardasigilli sulle toghe, c'è la concreta disponibilità dell'UDC, PD poco coraggioso, dice, insomma, bisogna distinguere tra l'UDC e la sinistra. Il partito di Casini infatti ha dato una disponibilità concreta al dialogo nella consapevolezza che la riforma è necessaria e che non si possono porre dei limiti angusti. Paletti, che invece mette il PD, il punto è che non si può immaginare di intendere il dialogo con un sì formale e un no sostanziale. Ecco, qui si vede che il ministro Alfano, probabilmente dopo le parole di Silvio Berlusconi, in qualche modo deve anche lui come dire, restringere l'ambito di trattativa. Non si può essere disponibile al confronto solo a patto che non si tocchi la Costituzione, perché in sostanza questo significherebbe rinunciare al programma della giustizia con cui abbiamo vinto le elezioni. Questo è il punto vero ed è il punto forte sulla quale poi ci si scontrerà nei prossimi mesi. Questo è il quotidiano Il Giornale. Se dal Giornale passiamo al Libero, al Riformista, no, ho sbagliato, al Riformista, ecco, il titolo è molto forte, riguarda un evento che accadrà domani, uno sciopero inutile, questo è il titolo del Riformista, il milione di Epifani, sarà più una prova di forza da opposizione politica che un'azione sindacale, ma ha già spaccato il PD e allargato il solco tra con CISL e UIL. Bonanni infatti dice polemicamente nei confronti di Epifani: perché non scioperano anche contro la Iella? Come dire, insomma, non, con tutto il rispetto, scrive Marco Ferrante sempre sul Riformista, a che serve questo sciopero? Il Riformista poi invece scende in campo per difendere Fabio Fazio, dicendo, insomma, sostanzialmente, i vigilantes del talk show Rai: che tempo che fa, piove di brutto, perché il governo non è ladro ma poliziotto, e di polizia politica si tratta. Come definire altrimenti quanti nel PDL stanno giudicando la trasmissione di Fabio Fazio in base all'orientamento politico dei suoi ospiti, e come giudicare un romanzo in base al credo religioso o politico del suo autore, giudicare una canzone dall'orientamento sessuale del cantante? Ma purtroppo non si tratta di un giudizio teorico, per quanto scorretto, peggio, è un giudizio che vorrebbe essere operativo, cioè nel senso operativo, tipo l'editto. editto, cosiddetto editto bulgaro. Sentite Alessio Butti, capogruppo PDL in vigilanza. Rai 3 è una repubblica separatista. Non è più il caso di consentire a Fazio di fare... È il caso di dire il bello e il cattivo tempo. C'è un'inutile aria di editto bulgaro bis, odore di fritto rifritto del giorno prima, scrive Luca Mastantonio sul quotidiano Il Riformista. A buttare acqua sul fuoco, per fortuna ci ha pensato Giorgio Napolitano, che con una lettera di auguri a Fazio per lo speciale di Bocelli. Tutto nasce però, scrive Luca Mastantonio sul Riformista, da Maurizio Gasparri, che invita Riccardo Villa, il presidente ad interim della vigilanza, a intervenire su che tempo che fa, e qui c'è una presa di posizione molto netta invece del quotidiano Il Riformista. Vi dicevo, il quotidiano Libero, importiamo, titolo diverso da tutti gli altri, importiamo papponi, 600 giovani convocati per una settimana a Roma da tutto il mondo, a discutere sul nulla e a spendere denaro pubblico. L'idea è stata di Prodi, questo governo l'ha attuata. E poi vi è invece un lungo articolo di Oscar Giannino sul conflitto di interessi, diciamo... Sono Soru e Berlusconi, ovvero chi di conflitto di interessi ferisce, di conflitto di interessi perisce, con un'avvertenza iniziale: non ce l'ho, né io che scrivo qui, né complessivamente noi tutti di Libero, in alcun modo personalmente con Renato Soru. È vittima anch'egli di un paradosso alimentato per 15 anni dalla sinistra. Questo paradosso, secondo Oscar Giannino, sarebbe il conflitto di interessi, che però, insomma, lui stesso riconosce essere vero e esistente. Questo il quotidiano Libero. Se da Libero ci spostiamo sull'Unità, però troviamo un tema che abbiamo sentito nei GR, poco, abbiamo letto poco sui quotidiani oggi. Fumo di Roma, è al 40, l'Italia, ambiente, Italia tra gli ultimi, è al 44esimo posto sulle emissioni, al vertice UE, rischio isolamento. Lotta alla febbre del pianeta, l'Italia è maglia nera. Lo studio presentato ieri alla conferenza ONU sul dopo Kyoto a Poznan inchioda l'Italia. Nella lista siamo appena sopra la Polonia, risultando i meno impegnati sul tema delle emissioni. Noi sappiamo che questo tema delle emissioni è un tema molto delicato, che coinvolge anche la polemica che c'è in Europa, la minaccia nostra dare un veto e via dicendo. Sotto esame 57 stati, nell'elenco il nostro paese scivola al 44esimo posto. Oggi il vertice UE, Berlusconi minaccia: se colpiranno i nostri interessi metterò il veto, appunto, abbiamo detto. Indietro tutta la performance ambientale dell'Italia peggiora. Nella classifica degli interventi per la riduzione dei gas serra di 57 paesi, il bel paese si piazza nelle ultime posizioni. È questa la situazione fotografica dell'ultima edizione del Climate Change Performance Index, elaborato dall'associazione tedesca German Watch in collaborazione con Legambiente. Lo studio è stato presentato ieri alla conferenza ONU sul post-Kyoto in corsa a Poznan, alla vigilia del summit UE che dovrà approvare il pacchetto clima. E questo è davvero, sì, una brutta sorpresa, perché siamo veramente indietro. Mi fanno segno dalla regia che abbiamo chiuso il tempo, il nostro tempo, quindi io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento domattina.